Grazie al GR di Radio Popolare, la linea torna a Bologna in via Zanardi per Radio Città Fujiko e la prima colazione in diretta è il Breakfast Club. La sigla è già partita, come ogni giovedì si va in scena. Oggi puntata molto estesa, ospite in diretta Ilaria Chia a breve, ospite in diretta telefonica Francesca Sinigaglia, direttrice del Museo dell'Ottocento. Questa prima parte è dedicata al Mambo con l'iniziativa Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024. Questa esperienza è nata dall'innovativa realtà del Nuovo Forno del Pane promossa nel 2020 dal Mambo per supportare la comunità artistica durante l'emergenza pandemica, offrendo loro uno spazio di ricerca e produzione. In questa edizione sono già arrivati sul territorio in fase di insediamento nelle rispettive sedi dei 6 distretti culturali dell'area metropolitana di Bologna le artiste e gli artisti selezionati con avviso pubblico per il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024. Ne parleremo e ne abbiamo parlato con Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna. Entriamo in approfondimento a proposito di questa seconda edizione Outdoor Edition. Sentiamo di che si tratta. Si sta parlando della nuova edizione del Nuovo Forno del Pane, una seconda edizione del Nuovo Forno del Pane Outdoor. Ci teniamo, insomma, a connotare anche questa seconda edizione con la sua caratteristica di essere un'edizione diffusa in tutta la città metropolitana. Abbiamo appena oggi presentiamo i 6 artisti che hanno vinto la call, sono arrivati un centinaio di proposte, per cui siamo molto contenti. Pensiamo che questo progetto continui a cogliere un po' anche un'esigenza da parte degli artisti, ma soprattutto ci piace pensare che questa città metropolitana di Bologna si sta rendendo sempre più attiva, perché dopo i primi 6 luoghi di produzione, che sono studi d'artista, spazi di compagnie teatrali, spazi di collezionisti privati, spazi messi a disposizione da comuni, nuovi 6 comuni, ognuno per uno dei distretti culturali della città metropolitana, nuovi interlocutori si sono resi disponibili a portarsi in casa un artista e farlo per i prossimi mesi con dei progetti che questi artisti penseranno e svilupperanno proprio nei territori e nei luoghi che andranno a vivere. Quindi un'esperienza di residenza e di formazione non solo volta ovviamente a una collaborazione col Mambo, lo sviluppo di un linguaggio di arte contemporanea, ma concepita proprio per essere in dialogo con i distretti, con le persone che vivono in quelle città e con chi lavora anche quotidianamente in quegli spazi. Quindi una presenza capillare che si estende. Alcuni luoghi li possiamo già anticipare? Assolutamente sì, si va da musei come il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, che siamo molto felici di avere quest'anno, a cementerie artistiche, quindi a spazi di come la Casa della Cultura di Caldera di Reno, che sono spazi polivalenti in cui appunto si può mischiare anche una produzione artistica sonora, teatrale, performativa, fino ad arrivare quest'anno siamo anche molto felici ai fini del Campiaro a Grizzana Morandi, un luogo che è stato ritratto dal più importante artista della storia di Bologna, da Giorgio Morandi, per tantissimi anni e moltissime volte, e che diventeranno la sede proprio di una delle residenze di quest'anno. Io ringrazio Gianluca che ha scritto al 333-180-9494. Prometto, anzi mantengo, che il messaggio verrà letto domani durante la lettura delle prime pagine. Intanto grazie Gianluca e buona giornata. Abbiamo intanto lo spazio dedicato all'arte, alle esposizioni. Do il benvenuto a Ilaria Chia, che tra poco avremo in diretta nello spazio a Regola d'Arte in mostra di Radio Città Fujiko. Vi ho già dato l'incipit per quanto riguarda questa seconda edizione del Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024. Giovani artisti in sedi che, oltre a dare la possibilità di lavoro, danno anche a noi una possibilità di conoscenza nell'arte, dopodiché anche per un territorio che a volte trascuriamo o che riteniamo, per così dire, di secondo piano. No, sono spazi, territori, luoghi assolutamente importanti per l'ispirazione, la loro bellezza estetica, la particolarità, l'estensione visiva, emotiva e anche di una costruzione concreta per quanto riguarda l'espressione artistica. Grazie a Lorenzo Balbi per quanto riguarda, oltre che l'organizzazione, l'idea, i percorsi. Ricordo, è già la seconda edizione e diamone uno spazio e un'amplificazione seguendo appunto queste iniziative. Quindi diciamo è una grande ampiezza di proposta, però ci piace pensare anche al museo come un luogo capace di connettere questi luoghi, perché ok, il museo è un centro riconosciuto, ha i suoi visitatori, però il ruolo del museo pubblico per un dato territorio è anche quello di lavorare con queste realtà che ci sono, che ci circondano, e non portare queste realtà a lavorare al museo, ma andare come museo, portare gli artisti anche per far vivere queste che sono delle vere eccellenze. Abbiamo parlato di giovani che indubbiamente portano grande entusiasmo. Da questa conversazione ho notato anche un grande valorizzare il territorio. Esatto, noi concepiamo un po' proprio l'essenza del lavorare in un museo pubblico come quella di tessere questo tipo di network. Alla fine quello che ci contraddistingue come musei pubblici ormai è sempre meno spesso la nostra capacità di intercettare i grandi mostre, portare i grandi nomi, quello sempre meno, perché ovviamente c'è chi ha molte più possibilità di noi, ma il nostro ruolo non è questo, deve essere un altro, deve essere quello di lavorare con i giovani, di scoprire i talenti, di produrre arte, non solo di esporre arte come fa questo progetto, e soprattutto quello di essere delle antenne per un territorio. Il museo deve essere un punto di riferimento per una comunità, deve essere l'interlocutore privilegiato per gli artisti, per chi si occupa di cultura visiva in ambito contemporaneo. Saranno visitabili? Ovviamente sì, gli artisti saranno per dei mesi in questi spazi, i loro studi sono visitabili, si può ovviamente anche per gli addetti ai lavori organizzare delle studio visit, ma avranno dei momenti anche di restituzione pubblica, ognuno dei suoi territori, alla fine anche comuni a Bologna. Gli artisti, giovani, entusiasmo, cosa vogliamo aggiungere anche? Ah, soprattutto aperti, perché è un gruppo, adesso ovviamente noi l'abbiamo selezionato in base alle proposte che ci hanno mandato, il loro percorso, quindi siamo anche curiosi, e il progetto che volevano sviluppare in questi territori, siamo anche curiosi di capire che cosa faranno nella pratica. Però quello che mi ha sorpreso è che siamo riusciti, grazie appunto al grande numero di richieste che sono arrivate, a poter spaziare, quindi ci sono artisti che arrivano dagli ambiti più differenti, che utilizzano anche i media più differenti: scultura, pittura, installazione, suono, performance, danza, teatro. Per cui ci piace pensare che questo sia un format non solo sperimentale nel suo concepirsi fuori dal museo in una rete così diffusa, ma anche nel poter lasciare carta bianca agli artisti di sperimentare con il loro lavoro, e la loro giovane età li aiuta anche a poter ancora osare e staccarsi dalla consuetudine. Thank you. passato anche per ascoltare altri suoni dalla City Center Office di Berlino. Siamo partiti con Dictaphone e questo glitch elettronico jazz fino ad arrivare al post rock dei Manual che stiamo ascoltando e che vi propongo. A breve con la pubblicità faremo lo stacco che ci permetterà di arrivare a un approfondimento inerente al lungo 800 a Bologna e metterà insieme anche la realtà in scena, così diamo un collegamento al venerdì e ovviamente alle esposizioni in mostra. Citato il direttore del Mambo Lorenzo Balbi, che ringraziamo per la disponibilità ai microfoni di Radio Città Fujiko al Breakfast Club, oltretutto l'occasione del 60° anniversario della morte del grande Giorgio Morandi, il nuovo forno del pane Outdoor Edition 2024 ha riservato in rappresentanza del distretto culturale Montagna uno spazio di lavoro presso i fienili del Camparo. Anche uno spazio che è il Museo della Civiltà Contadina al San Marino di Bentivoglio, in questa frazione, in un territorio di pianura che, come ben sapete, nel cuor mi sta, è uno spazio oltre che esteticamente bellissimo, ha veramente la possibilità di ampliare non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal contenuto per questi giovani vincitori e vincitrici dell'avviso pubblico portato dal nuovo forno del pane Outdoor Edition 2024. Ci sarà la possibilità, saranno ospitati fino al 28 luglio 2024. Ancora un minutino di musica, andiamo in pubblicità e poi procediamo in mostra. A tra poco.